Signor Presidente, onorevoli colleghi, si chiude oggi impietosamente una storia italiana segnata dal fallimento politico, dall'imbarbarimento morale, etico e civile della nazione e da una pesantissima storia criminale. Storie che si intrecciano maledettamente ai danni di un paese sfinito e che riconducono ad un preciso soggetto con un preciso nome e cognome: Silvio Berlusconi. Mai mi stancherò di ringraziare di chi ancora mi dà grazia di ascoltare. Gillissimi, da piccolo una peste e due babysitter. Momonello, una room di hotel, Rubi ruba cuori e Robby. Sono due escort, yes, set, look, due hostess. No love, dei set, veste mignote, check in, check out, performance, no doping, stai sotto stress. Cercami, fammi come una rete wireless, perché sono serio, gentleman. Scorro come cazzo, non sono lapide, voglio vedere Monello scritto sopra quelle stars. Big, ancora non ci credo di arrivare come Babilonia alla grande. 0575, chiamami call center. Frida Low, Eva Engel, i peggio elementi. Cuore di latta, ozzo come la fotte, le dire di Bender. E se vuoi, prova a venire a prendermi. Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Happy Hip Hop. Happy Hop, Hip Hip Hip Happy Hop, Hip Hip Happy Hop, Hip Happy Hip Hip Hop. Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hip Hip Hop. Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Happy Hip Hip Hop. Tipe che mi incinano di bere un tot, mi eccito tequila shot, sarai scam shot. Il divo come il Sorrentino, blues in sottofondo, fino in fondo quel bocchino Enrico, nella manita il bivio. Sembra essere lui, non chiamami Silvio, al contrario un ragazzino di bingo. Un artista incompreso, con più astuzia, più spesa. Monello se il cervello, anche se gioco distinto. Anca muta, stanana stesse muta, tre H incastonate, alle medie terza H. Non hai capito stacca, tranquillo, se non hai capito un H chiude Kama Sutra. La musica balla, la tua tipa balla, sorridi a tutto, il tuo amico basa. La raccatti basta, perché a te tocca riportarle a casa. Fanculo questo libro, ti bastano due bili per sentirsi invincibili. Vi riconosco attento, fate quello che dicono, ma non quello che fanno. Non sono abituati affatto al fatto che le parole ai fatti se li porta via il vento. Bro, bro, bro. Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hip Hop. Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hip Hop. Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hip Hop. Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hip Hop, Hip Happy Hop, Hip Happy Hop.